Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Non è frequente, Chiara, che a Mebius si parli di musica, ma questa è una di quelle volte. Parliamo di musicisti 2.0? Ovviamente se ne parliamo qui è musica che ha dentro una grossa componente tecnologica. Adesso i titoli, benvenuti e benvenute a Mebius e poi incominciamo. Sta nascendo un nuovo modo di fare musica, tutto immerso nelle tecnologie digitali. Grandi opportunità, ma anche il pericolo di una produzione vuota di significati. Una pacca sulla spalla e via, su, non prendertela. Anche fra i macachi ci sono attività consolatorie. Ogni edificio di ogni città potrebbe avere la sua carta di identità energetica consultabile online. Due piccoli comuni ce l'hanno già. Allora, musica che ha una sua origine addirittura in termini di programmazione elettronica, quindi programmazione via computer, ma anche molto altro, molta complessità. Ne parliamo con Michele Weiss. Benvenuto Weiss. Grazie. Ciao Michele. Ciao, giornalista, ti interessa innovazione. Hai scritto per Nova un articolo su, possiamo dire, le nuove possibili sonorità con la musica elettronica, che però non è quella che conosciamo da tanti anni, in fondo da almeno 40-50 anni, qui ci sono grosse novità. E insieme a te c'è anche Massimo Marchi, benvenuto Marchi. Buonasera. Buonasera. Docente di musica elettronica al Conservatorio di Bolzano. Allora, Michele, iniziamo con te. Dacci un po' la cornice del tutto. Nell'articolo abbiamo cercato di ricomporre uno scenario che ruota attorno al seguente tema, cioè come la tecnologia sta impattando la produzione della musica. Fortemente. Ed è una cosa che sta accelerando, nel senso che effettivamente poi tutto ciò che le nuove tecnologie del web, del digitale e lo sviluppo delle piattaforme social hanno dato un'ulteriore accelerata, per cui noi devo dire che componendo con Nova questo scacchiere abbiamo scoperto tante cose diverse. La cosa più importante è vedere come in ridefinizione ci sia proprio la categoria di musicista e di compositore, nel senso che effettivamente la tecnologia sembra che stia prendendo un po' il sopravvento. Infatti all'inizio dell'articolo io, un po' per drammatizzare, dicevo: ma non è che un robot poi arriverà a produrre, diventa più bravo che un musicista in carne e ossa. Eh sì, e c'era esattamente, perché c'era poi anche quell'esempio di un programma software messo a punto da un americano, da David Cope, a cui dato un nome umano, Emily Howell, che è arrivato a comporre musica classica, ma è un computer, livello. È un software di alto livello, è stato venduto, poi non so esattamente se abbia fatto quante successo, vendite, ecco. Ci sono state anche delle polemiche chiaramente al riguardo. Certo. No, e un po' questo tipo di polemica ci arriviamo, ma, no Marco? Comunque è interessante, perché i primissimi utilizzi del computer e musica sono stati proprio per generare della musica che veniva scritta e poi suonata da strumenti tradizionali. Sì. Ah, ecco. Proprio, invece qua c'è un'evoluzione, lei è anche compositore. Certo, tu ricordi quando si diceva: può un computer darci le musiche che Mozart non ha composto? È iniziata così, effettivamente. È iniziata un po' così, prendendo a spunto dai modelli compositivi, della grammatica, delle prime cose, è sempre stati Bach al computer, Bach certo. Matematica. E ora c'è un po' un'inversione di tendenza, per cui il musicista è anche programmatore di PC invece. Sta diventando costruttore dei propri strumenti, mentre una volta c'era il liutaio che costruiva il violino, c'era vari artigiani che costruivano gli strumenti e i musicisti. Adesso invece il computer ha bisogno di essere programmato per suonare, perché come sappiamo il computer non fa niente da solo, per cui il musicista deve iniziare a... Allora, adesso però ci devi spiegare una cosa tecnicamente. Adesso sentiamo un signore che si chiama Jeremy Ellis che suona. Dopo diciamo che cosa diavolo suona. Ecco, sentendo si capisce che non è una musica generata da strumenti classici, però questo tipo di sonorità la conosciamo un po' da tempo, è quella che viene fuori da strumenti elettronici, ma qui c'è di più. Intanto questo signore qui, dobbiamo descriverlo, non ha davanti la classica... preso questo audio da YouTube, esatto. Video di YouTube. Non ha davanti la tastiera di un sintetizzatore che però ha sempre i tasti, per esempio, bianchi e neri, tipo piano. Questo qui ha davanti qualcosa che potrebbe essere il quadro di un registratore jet. Di cassa della Coppa. No? Anche una cosa del genere. Ma insomma, si vedono quei tastoni tutti belli... Tutti colorati, quadrati, tutti uno uguale all'altro. Perché qui c'è qualcosa di diverso dal sintetizzatore classico? Cos'è che c'è di differenza? Anche se la sonorità un po' invece ci assomiglia. La differenza fondamentale è proprio come viene suonato il computer, come viene generato il suono, cioè con che azioni fisiche. Invece che schiacciare dei tasti bianchi e neri come il pianoforte, ci sono dei tasti più o meno grandi e questi tasti possono essere riprogrammati per suonare qualsiasi suono, qualsiasi nota. Per cui lo stesso esecutore non è fisso, io al pianoforte c'ho il do e il do è quel tasto lì. Anche se elettronico è quello lì. È quello lì, tendenzialmente. Almeno che con nuovi strumenti posso rimappare il suono. Con quella superficie di controllo che usa Jeremy Ellis, io posso ricambiare ogni volta che voglio i tipi di suono che in quel momento sto suonando e quindi adattarmelo più vicino a me. Quindi come sono, caratteristiche sono io esecutore. Il compositore, il programmatore che decide che programmi e che tipo di suono far uscire anche dallo stesso tasto. Magari in un certo momento quel tasto fa suonare un suono una certa frequenza, più avanti nella composizione posso decidere che lo stesso tasto fa qualsiasi altra cosa e può produrre dei rumoracci addirittura a suo vaglio, no? Però esatto. Voglio usare qualcosa che è un motorino che sgasa, per esempio lo stesso e quindi, tasto in realtà per esempio 8 tasti possono produrre molto più che 8 suoni negli strumenti anche tradizionali, 8 tasti forse accoppiati, no? Sì. Quindi tutte queste possibilità qui, che però sta al musicista performer predeterminare in anticipo. Senti, e quindi deve programmarsi una scaletta per cui sa cosa succede più o meno nelle sue intenzioni, una specie di canovaccio. C'è una cosa, vedendolo, andate a vedere Jeremy Ellis su YouTube, lo trovate, che sorprende, perché lui con le dita si muove su questi tasti come un grande pianista. Ma il pianista, però, in qualche modo è vero che poi il grande pianista può suonare anche ad occhi chiusi, certo, però il pianista sa dove sono le note, va a prendersele. Lui lì ha un'abilità mostruosa come fa? I colori, lui riconosce i colori. Se notate, poi appunto, per chi andrà a vederlo su YouTube, poi ce ne sono tanti altri. Con quel tipo di strumento, credo, poi Massimo può confermare, lui si aiuta molto con i colori che si illuminano, che danno il tempo e il tipo di sonorità che entrano e di effetto soprattutto. Quindi però impara tutta una manualità completamente diversa. L'improvvisazione, il jazz in questo caso non si può fare o sì? Cioè si può improvvisare anche una composizione, è più difficile. È molto più difficile. E poi sono curiosa, esiste uno spartito elettronico per questa cosa? Questa è proprio una bella domanda, perché questi nuovi mezzi implicano anche dei nuovi sistemi di notazione e questo è tutto un problema molto aperto adesso, come effettuare la notazione della musica proprio digitale, musica elettronica. E quindi molto spesso si hanno delle soluzioni personali. Ogni compositore c'ha un po' la sua maniera di notare che bisogna imparare. È la sa lui, sì. Quindi non è, Michele, non è riproducibile facilmente. Non è che un altro può facilmente... No, voglio dire, qualunque direttore d'orchestra nel mondo si prende uno spartito di Bach e lo suona. Qui non è così. No, questo è proprio un grosso problema. Da quello che abbiamo capito è che comunque se prima c'era uno strumento perfezionato in anni con grande maestria dal maestro Liutau, eccetera, eccetera, qui siamo in un universo di randomizzazione assoluta. Cioè si sta arrivando dove uno si costruisce il proprio strumento e solo lui sa suonarlo. Per esempio... Quindi un'opera d'arte, come dire, come se fosse un quadro, unica... Quindi ecco perché si parla anche di sound designer, insomma sono proprio opere d'arte. Cioè c'è un rapporto fortissimo tra il creatore e lo strumento e il suono che ne è uscito. È sperimentazione pura da questo punto di vista. Dopo ci sono anche motivi commerciali, diciamo che ovviamente se ci sono delle grandi ditte produttrici che producono dei particolari strumenti cercano anche di imporli sul mercato e quindi ci sono sia esigenze personali. Si crea uno standard, tu dici, per questo. Il problema è proprio questo, creare uno standard, mentre la tastiera è uno standard di per sé e tu impari a suonarlo. Ognuno di queste superfici di controllo è completamente diversa, quindi ci vogliono anni di studio per imparare a suonare. E se non si standardizzano va a finire che io imparo a suonare la mia sfera o la mia macchina strana, però la so suonare solo io perché gli altri hanno imparato o si sono costruiti il proprio oggetto sonoro. Si sta creando un rapporto completamente diverso fra creatore, suonatore, creatore di musica e lo strumento. E infatti adesso sentiamo cosa succede nel traffico, che ha una sua sonorità che prima o poi finirà senz'altro nelle vostre macchine. E come abbiamo già fatto 3 anni fa la mappatura di tutte le strade di Milano, una bella installazione a Palazzo Reale, che uno si sente tutto il traffico. E poi dopo riprendiamo da questo punto, c'è un'app con cui, no, Michele, si può suonare. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Stiamo parlando di nuove possibili sonorità che nascono dal potenziale tecnologico digitale, ma in fondo da tutto quello che le tecnologie ci possono oggi dare, in particolare certo con la possibilità di programmare computer che entrino anche in questo campo. Ne stiamo parlando con Michele Weiss, giornalista che si interessa in innovazione, ha scritto su questo un articolo su Nova, l'inserto di Scienza del Sole, con Massimo Marchi, docente di musica elettronica. Michele, ci siamo lasciati prima del traffico dicendo che, insomma, l'introduzione è questa, cioè quando vengono le nuove tecnologie, quando vengono nuovi strumenti, c'è sempre una possibilità, c'è sempre come una zona di sovrapposizione con il vecchio e il nuovo. Io accennavo a un'app di cui mi parlavi prima di andare in onda, che cos'è? Allora, quest'app si chiama Cadenza, credo che sia per Android, perché in realtà l'abbiamo scoperta su una piattaforma di crowdfunding che si chiama kickstarter.com, abbastanza nota. Perché? Perché appunto queste app, così come i nuovi strumenti, per finanziarsi e per nascere devono stare ormai nei nuovi... E quindi si crea anche questo groviglio, questo intreccio tra musica, iniziative commerciali, insomma è un rebelot, come si dice. Esatto. Cadenza, perché è interessante? Perché effettivamente esalta le potenzialità della musica classica e offre uno strumento ai musicisti di nuovo che prima non c'era. Cioè io sono per esempio un violinista, mi devo esercitare, invece che farlo da solo nella mia stanzetta, che peraltro può essere anche bello, ma non per tutti, questa app, poi collegata al computer, mi permette, cioè con un tablet, mi permette di suonare con un'orchestra virtuale, ma registrata prima, quindi con grandi partiture, grandi esecuzioni. Che però ti segue. E ti segue, la cosa, infatti, sorprendente la programmazione, questa. Il software, è ovviamente smart, appunto da seguire il tuo, adattarsi al tuo stile di Va bene, qui abbiamo visto un punto di congiunzione tra vecchio e nuovo. Al Piccolo Teatro, Marchi, tu con il tuo gruppo avete messo in piedi uno spettacolo su Turing, Alan Turing, grande matematico di cui qui a Mebius abbiamo parlato più volte. È stato messo in scena a fine 2012 per il centenario della nascita di Alan Turing, è prodotto da Agon, è una struttura qui a Milano che produce spettacoli prima musicali, poi musicali e video, multimediali in genere, e abbiamo pensato questo spettacolo dedicato ad Alan Turing, dedicato tutto alla tecnologia. Non c'erano strumenti tradizionali o ibridi, quindi strumenti tradizionali e elaborazione elettronica, ma il suono era solo elettronico. Sentiamolo. E nel frattempo magari Massimo ci spiega un po' che cosa avveniva in scena. Sala buia. Sala buia, in questo momento non c'è l'attore, il tutto è generato in tempo reale, sia l'immagine che il suono. È un software di generazione basato su alcune equazioni che Turing stesso aveva elaborato per spiegare la morfogenesi. Ecco, sentiamo dei cambi di suono e corrispondono a dei cambi in effetti di scena. Di scena nell'immagine. Quindi l'immagine, che era generata in tempo reale, si muoveva e si elaborava in base a come si muoveva il suono. A ci seconda sono... della dinamica, a seconda delle frequenze, il video veniva cambiato. E ci sono ben 4 persone in ombra che lavorano alla generazione, sì. Di questi quattro suoni. Musicisti e un video designer con un assistente. Questo qui, era lo spettacolo. E qui è tutto programmato. Questo è tutto programmato e tutto generato in tempo reale. Addirittura avevamo una Kinect, che è un aggeggio che tutti conoscono ormai come per videogiochi. Però qui dobbiamo spiegarlo per chi non la sapesse ancora questa cosa, perché ci servirà poi anche per proseguire. Michele, allora la Kinect, dai, definiscila tu, noi l'abbiamo anche spiegato. È un aggeggio, una webcam, diciamo, interattiva, intelligente, che legge i movimenti corporei e poi li trasmette a un software che poi li traduce in qualcos'altro. La conoscono tutti quando giocano a tennis contro il televisore. Puoi giocare a tennis perfettamente davanti a uno schermo un po' grande. Esatto, noi invece l'abbiamo utilizzata per fini, speriamo più artistici noi, comunque per un utilizzo non da videogioco, ma applicato a una drammaturgia dell'attore, quindi i suoi movimenti generavano dei suoni e anche determinavano una creazione di un avatar in computer graphics che in base ai suoi movimenti anche proprio cambiava di forma. Dimmi se sbaglio, qui in Nuccio, cioè proprio siamo al primo seme, c'è un attore che genera della musica. Sì. In progress, andando avanti, a un certo momento impareranno probabilmente gli attori a fare un certo tipo di loro musica con questa strumentazione. Diventerà un allargamento della loro espressività e in questo certo il mutamento diventa impressionante. Sì. C'è tutta una nuova forma di teatro da studiare, di drammaturgia teatrale, sia legata ai movimenti che generano del suono e dell'immagine, e sia il suono e l'immagine stessa che non sono più delle musiche di scena o delle scenografie, ma fanno parte proprio della struttura. Cambiano, esatto, drammaturgica. E pensa addirittura, Federico, se un direttore di orchestra potesse, muovendosi, far suonare a destra e a sinistra un computer. And now, let the show begin. Allora, qui la scena è un direttore classico, solo che, come al solito, sbraccia in aria e di fronte ha una ventina di computer. La computer orchestra. Allora, questo qua appunto è molto emblematico come progetto. È un progetto nato da tre studenti delle CAL, che è l'École des Arts Polytechniques di Losanna, che è una scuola che forma designer, artisti di nuova generazione. Questi hanno dato vita a un progetto di sound design di nuova ancora generazione, un po' diverso rispetto a quello che si diceva prima. Cioè è l'orchestra crowdsourcing, nel senso che loro hanno registrato, hanno chiesto a varie persone di registrare una traccia musicale come un coro. Come volevano, una chiamata. È stata uploadata sopra un server e poi tramite la Kinect il direttore d'orchestra attiva questi computer con il suono, col movimento del suo corpo. Perché se muove il braccio verso destra in alto di 30 gradi, c'è quel computer che mi risponde. Sì. Se vado più basso ne ho un altro. I computer forniscono un'infinita possibilità di interazione tra di loro a seconda di quello che il direttore d'orchestra fa come gesto. Esatto. E ogni singolo computer era stato programmato con una delle tracce che erano pervenute tramite social. La cosa interessante perché mette in crisi il concetto di direttore d'orchestra, che comunque in realtà è molto più in discussione, perché è legato a uno strumento. E poi la nozione stessa della musica, nel senso che la partitura viene fatta da tante persone, crowd, cioè è proprio anche questo un'altra nuova. Cioè il concetto autorale, certo, grazie alla tecnologia, sta cambiando. Sì, questo è molto importante. Devo dire che in tutti i progetti di una certa consistenza adesso elettronici è raro parlare di un solo autore o creatore. Le competenze sono talmente vaste per cui si parla sempre di un team di creatori. Ecco, senti Massimo Marchi, chiudiamo su questa cosa. Tutto ciò è molto interessante, molto bello, è una ricerca stimolante, deve andare avanti, non è in discussione questo. Però c'è un rischio che oltretutto queste grandi potenzialità tecnologiche anche di tipo visivo si sta manifestando, diciamo, questo problema anche nelle arti visive, e cioè una enorme possibilità, disponibilità chiamiamo così, di effetti stupefacenti, belli, dietro i quali però potrebbe esserci anche, e qui se parliamo d'arte, l'arte ha dentro del pensiero, no? Ci potrebbe essere una grande vuotezza e potrebbe proprio, tu insegni al conservatorio, questo problema ce l'avrai. Il punto critico di tutto il discorso, cioè che praticamente questa tecnologia ci dà ogni giorno praticamente dei mezzi nuovi e delle potenzialità nuovissime che possono diventare proprio degli exploit di per sé e sembrare dare del contenuto nuovo, in realtà sono dei gadget nuovi. Uno è la rincorsa del gadget nuovo per essere al trend con i tempi e invece manca un pensiero dietro, cioè io voglio esprimere qualcosa con questi mezzi o voglio fare semplicemente una collezione di sofisticati sofisticati rumori. E quindi all'inizio della tecnologia forse bastava questo per dare un contenuto, cioè di per sé la novità dava un contenuto nuovo. Adesso diciamo che ci vuole una riflessione un po' più seria, assolutamente, sì. Questo è quello che deve sviluppare, che è un problema anche dei video. È un problema dei video, ma è un po' un problema del computer, cioè con Photoshop tutti credono dopo un mese che lavora di essere dei grandi fotografi. Certo. E non è proprio così. Infatti la questione, tu insegni al conservatorio, la musica la conosci perfettamente, quindi oltre ad essere programmatore, musicista, conosci bene anche la teoria, quindi è importante che si abbia anche una preparazione, ovviamente come in tutte le arti. Certo, questo è importante, questa fase di apprendistato e soprattutto i tempi di assimilazione umana non sono assolutamente i tempi di evoluzione tecnologica, per cui bisogna cercare di adattare i nostri tempi di assimilazione all'utilizzo delle tecnologie, altrimenti proprio le utilizziamo per il 5%. I grandi fotografi hanno sempre detto la macchina è quella roba che fa click e basta, la foto o ce l'hai nella testa. E Michele ci diceva fuori onda che c'è anche tutto un problema commerciale legato a questo, perché ovviamente poi chi sviluppa ad esempio la prima applicazione, il primo strumento multimediale, è certo che un po' si accaparra la fetta di mercato e poi vuole venderla. Esattamente, e adesso devo dire che dal punto di vista della stretta attualità la roba interessante è proprio la parola sempre ancora una volta crowdsourcing, perché per esempio un altro strumento che vorrebbe imporsi diventare standard, questo Alpha Sphere, che è una specie di palla a 48 tasti, fantastica da vedere, anche questo ha vinto premi di design, a maggior ragione. Anche questa ha bisogno di essere, sostanzialmente è in vita perché c'è gente che la compra e che dice io voglio diventare uno dei primi suonatori di Alpha Sphere, per esempio. E quindi qui c'è una guerra in atto per reinventare, e qui ci sono praterie aperte, però bisogna vedere poi, come diceva Massimo, magari sono strumenti che nascono la mattina e muoiono la sera o viceversa, cioè bisogna capire un po'. È che siamo entrati in un'era in cui lo strumento nuovo non è un tamburellino, è uno strumento che ha una sofisticazione micidiale, quindi produce degli effetti affascinanti ma che potrebbero essere appunto una sfera completamente vuota in realtà. Non e in c'è questo senso è difficile anche valutarne il risultato, nel senso che la musica che abbiamo sentito finora, siamo d'accordo, ci sembra molto bella, per qualcuno può sembrare invece magari più scadente, ci mancano proprio forse dei parametri, degli standard per poterla valutare. Questo è verissimo, mentre una volta si capiva benissimo se un esecutore era bravo o non era bravo, si vedeva qui come si fa a giudicare? È difficile giudicare proprio la bravura. Però allora vedi che il discorso che diventa vincente è che se dietro c'è però un pensiero forte, allora quella differenza la vedi perché ti arriva qualcos'altro insieme a questi suoni. Assolutamente, questo è importantissimo, questo è proprio il vero punto della questione. Credo che abbiamo finito il nostro tempo, è stato un viaggio breve argomento, ma affascinante. Grazie Michele Weiss, grazie a voi, Massimo Marchi. Grazie a voi. Arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Va bene, noi ogni tanto dobbiamo parlare dei macachi, fortunatamente ci sono sempre delle notizie interessanti, ma è un molto interessanti bisogno, e guarda, quasi una notizia molto positiva, ti dirò. Per farlo noi non possiamo andare da nessun'altra che non dalla nostra primatologa preferita, Elisabetta Palagi. Bentornata, buonasera. Buonasera. Benvenuta Elisabetta. Primatologa dell'Università di Pisa, del CNR di Roma, ormai la conosciamo da tempo. Questa volta avete studiato i macachi, allora facciamo un'introduzione sul mondo macaco. Allora, Allora, il mondo macaco, genere macaca, parlando, diciamo, utilizzando un linguaggio un pochino più scientifico, è un mondo incredibile, nel senso che all'interno dello stesso genere ci sono tantissime specie diverse che, pur avendo la stessa struttura sociale, hanno dei rapporti interindividuali, cioè i rapporti che legano i differenti soggetti, estremamente diversificati. Tant'è che un autore autorevole, Bernard Thierry, a suo tempo ha, diciamo, stabilito una specie di graduatoria secondo la quale i macachi si organizzano in funzione del loro diverso grado di tolleranza. Per intenderci, si dividono, si potrebbe, diciamo, se volessimo fare un equivalente nel mondo umano, potremmo dividerli tra progressisti e conservatori. Attenzione che siamo in par condicio, eh? Non possiamo entrare in politica. Entrambi. Va bene, però poi non ci sarà nessuno di loro che ci dice qualcosa. Esatto. O nessuno si candida per l'europeo, no? Va bene, va bene. Quindi diciamo che, ecco, se dovessimo, chiaramente c'è un modo per, ci sono diversi modi per stabilire a quale grado, diciamo, appartengono, in quale gradino inserire ogni singola specie. Non è una classificazione fatta a occhiometro, come diciamo noi, ma ci sono dei parametri abbastanza chiari, ormai, diciamo, accettati più o meno da tutta la comunità scientifica, secondo i quali possiamo appunto arrangiare questa graduatoria. Scusa Elisabetta, quali sono? Magari possono servire anche per gli umani. Quali sono questi parametri scientifici? Dunque, intanto c'è i macachi più tolleranti hanno una maggiore plasticità comportamentale dal punto di vista dei vincoli sociali, sono meno nepotistici e quindi quello che conta non è tanto il rango o la parentela con persone o macachi importanti, ma è la qualità della relazione che lega i soggetti, cioè se sei un amico ci si comporta da amico, indipendentemente che tu sia di alto o di basso rango. Questo è permesso perché effettivamente c'è un diverso grado di distribuzione dei comportamenti cosiddetti affiliativi, come ad esempio il grooming, quindi la toilettatura del pelo, che in queste specie è estremamente importante. Ad esempio, le frequenze di grooming, quindi questo comportamento, diciamo, simile al massaggio, se volessimo fare un parallelismo con l'uomo, è molto più frequente nelle specie tolleranti piuttosto che in quelle despotiche. E, ad esempio, nelle specie tolleranti è bidirezionale. Cosa vuol dire? Vuol dire che non solo quelli di basso rango lo fanno a quelli di alto rango, ma accade anche l'inverso. Invece gli intolleranti hanno più, diciamo, un canale direzionale per certi tipi di comportamenti. Stai al tuo posto. Esatto. Riconosci le mostrine che ho sul braccio, mentre di là, diciamo, la divisa non è così importante. La somiglianza con gli umani non è poi così sono importante. Tante. Sono sempre più sì, affini. Ad esempio un'altra cosa importantissima che abbiamo appunto, e questa l'abbiamo quantificata noi, abbiamo suggerito appunto che potrebbe essere un parametro utilissimo per stabilire il grado di tolleranza, è il gioco tra gli adulti. Ad esempio specie che mostrano elevati gradi di tolleranza presentano alte frequenze di questo comportamento tra gli adulti. Cioè giocano più frequentemente tra loro? Sì, tra gli adulti, mentre nelle specie che sono, diciamo, più a regime despotico, il gioco è più vincolato alla fase immatura, quindi piccoli e giovani, e se c'è una, diciamo, una minima frequenza di gioco da attribuire agli adulti è sempre con i piccoli e mai con altri adulti. Non giocano tra di loro gli adulti. Giocano poi. Questa è una bella differenza. Nelle società despotiche la briscola non è permessa. Non giocano a carte. Questa divisione proprio tra tolleranti e intolleranti si vede proprio nella classificazione proprio a livello di specie. Sì. Tant'è che appunto vengono, diciamo, sono tante specie quelle che appartengono al genere macaca e, diciamo, i macachi che vivono nell'isola di Sulawesi, non si sa perché, dal punto di vista evolutivo, ma sembra che siano effettivamente più tolleranti. Infatti per il nostro studio, cioè l'approccio di tipo consolatorio, abbiamo scelto proprio come modelli due specie che stanno proprio all'opposto di questo gradiente, che sono macaca fuscata, la macaca del Giappone, quella che vediamo nelle terme, nell'acqua calda, eccetera, e macaca tonkeana, che è una specie di Sulawesi, endemica dell'isola di Sulawesi. E diciamo, questo ci ha permesso intanto di avere già un criterio classificativo abbastanza chiaro, nel senso che sono classificate come estremamente despotica, offuscata ed estremamente tollerante tonkeana, e quindi questo ci ha permesso di poter fare e discutere, interpretare il nostro dato alla luce di questo diverso sistema di categorizzazione. Ecco, infatti, okay, arriviamo proprio alle vostre osservazioni. Che cosa avete osservato, che cosa avete scoperto? Allora, dunque, diciamo che ci siamo concentrati, ormai il mio gruppo di ricerca, diciamo, focalizza moltissimo sulle capacità empatiche. Diciamo, l'argomento è estremamente interessante e accattivante, proprio perché l'idea è quella di utilizzare i primati non umani come modello per capire delle traiettorie evolutive riguardo appunto a tutti quei comportamenti che sono ascrivibili nell'uomo alle capacità empatiche. Questi primati sono molto distanti da noi umani a livello evolutivo? Ma diciamo, lo sono molto di più, ad esempio, rispetto alle grandi antropomorfe, gorilla e via, e bonobo, eccetera. Siccome il comportamento consolatorio si presuppone che sia un comportamento che ha forti basi empatiche, finora era stato trovato esclusivamente nell'uomo, il bambino fin dai 2 anni, 2 anni e mezzo di età ha questa capacità consolatoria, e poi è stato dimostrato nelle grandi antropomorfe come ad esempio lo scimpanzé, il bonobo, recentemente abbiamo lavorato anche su quello, e il gorilla. Però non era mai stata trovata la consolazione in una specie di macaca, cioè in una specie che comunque è più lontana dal punto di vista filogenetico, all'uomo rispetto a una grande antropomorfa. E la consolazione nei macachi la consideriamo come per gli umani, cioè se litigano o se sono un po'... La definizione, quello che abbiamo, diciamo, voluto fare noi è stata un po' una sfida, no? E dire, ok, se per consolazione intendiamo un terzo soggetto che avvicina una vittima che ha appena subito un'aggressione in modo spontaneo, quindi senza che la vittima chieda aiuto, ma questo si avvicini spontaneamente, così come è accettata nell'uomo e nelle grandi antropomorfe, se io applico la stessa definizione e applico lo stesso criterio di osservazione ai macachi, io devo accettare, così come lo accetto per l'uomo e le grandi antropomorfe, questo dato anche per i macachi. Ok. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso queste due belle specie estremamente molto simili dal punto di vista filogenetico e cognitivo, perché appartengono allo stesso genere, quindi dal punto di vista delle abilità cognitive non c'è una differenza sostanziale tra le due specie, ma molto diverse dal punto di vista del grado di tolleranza. E la cosa incredibile che è venuta fuori è che il dato su offuscata, cioè sulla macaca del Giappone despotica, è stato confermato sui dati precedenti in letteratura. Quindi abbiamo voluto riprendere la stessa specie che era già stata studiata per vedere se il nostro occhio era diverso dall'occhio di altri ricercatori. Abbiamo preso tonkeana però e abbiamo trovato che l'assenza totale del comportamento consolatorio nella fuscata e quindi nella despotica, ma un'elevatissima frequenza di comportamento consolatorio in tonkeana. Quindi un duplice risultato, insomma, c'è la consolazione ma c'è solo nella specie quella più tollerante. Esatto, potremmo dire che tutti gli studi che sono stati fatti in precedenza sui macachi, che non avevano mai evidenziato il comportamento consolatorio, era perché probabilmente avevano sbagliato specie, nel senso che avevano pescato nel secchio dei despotici anziché nei tolleranti. È chiaro. E questo perché? Perché chiaramente avvicinarsi ad una vittima subito dopo un conflitto in una specie molto despotica è più rischioso. È più rischioso perché si ha a sua volta, diciamo, il consolatore ha a sua volta il rischio di essere aggredito sia dal primo aggressore, non la prende oppure bene. No, addirittura non la prende dalla bene. Vittima, perché quante volte quando noi litighiamo col figlio magari poi ce la rifacciamo lasciami col marito, stare, no? Tu dici, è una cosa che accade tutti i giorni. E questo comportamento si chiama redirezione, cioè redirigere verso qualcun altro la propria frustrazione. Poiché i livelli di redirezione in tonkeana, quindi nella macaca tollerante, sono estremamente bassi, quasi per non dire assenti, probabilmente questo svincola il comportamento e permette l'espressione di capacità empatiche, cosa che invece non è permessa nella specie despotica. E proprio il gesto consolatorio, adesso negli umani noi tiriamo una pacca, un abbraccio, così. È esattamente più o meno la stessa cosa. Abbiamo che il terzo soggetto, che chiameremo consolatore, si avvicina alla vittima o lo abbraccia o lo bacia o lo tocca o lo accarezza. Che tenerezza. E una cosa sono parenti di solito i consolatori? No, non sono parenti. Quindi è proprio una roba di amicizia. Ma sono amici. Sono amici. Sono amici. Ecco, ma voi avete però registrato anche qualche caso di... che quello che deve essere consolato si ritrae, gli dice lasciami stare, cioè avete... No. Quindi c'è proprio una costanza forte. Sì. E ad esempio abbiamo ora, c'è un video che abbiamo appunto sottomesso insieme alla, a questa pubblicazione, dove si vede chiaramente un'aggressione di un maschio verso una femmina adulta, un'altra femmina che tenta disperatamente, abbaiando, proprio vocalizzando, di interrompere l'aggressione. Nel momento stesso in cui l'aggressore molla la vittima, il terzo soggetto, quest'altra femmina che si chiama Manta, si avvicina immediatamente alla vittima, la bacia, cerca di allontanare l'aggressore, come l'aggressore si è allontanato, si riavvicina alla vittima e l'abbraccia. Quindi c'è anche un lavoro di intermediazione. Sì, e addirittura possono essere presenti anche due consolatori insieme, cioè è come se il primo evento di consolazione creasse una sorta di effetto trascinamento verso altri soggetti che si compattano tutti intorno alla vita. Okay. Senta Elisabetta, però noi abbiamo, soprattutto negli ultimi, credo, 20 anni, insomma, ci sono stati studi molto più intensi e più approfonditi sulle scimmie e insomma una certa immagine è andata cambiando. Andavo sulla la faccia un po' oscura di tutte queste cose. Ogni tanto all'interno di questi gruppi come i macachi, ma anche i scimpanzé, no? Scimpanzé, pensiamo alle grandi immagini, sempre c'è stata, dello scimpanzé, quello di Tarzan, no? Buono e dolcissimo. Ogni tanto però invece si pestano su mica male, cioè ci sono anche casi di omicidio, no? Cioè si uccidono. Ecco, è allora... una cosa assolutamente biologica e dimostrata. L'aggressività fa parte della vita animale come quella umana, che peraltro è una vita animale lo stesso, nella quotidianità, cioè l'aggressione scatta ogni qualvolta può essere presente un conflitto di interesse, si compete per una risorsa, può scattare l'aggressione o si possono mettere in atto meccanismi preventivi all'aggressione o nel caso in cui scatti l'aggressione, se c'è un interesse da parte dei soggetti di risolvere il conflitto, scatta il comportamento riconciliatorio. Okay. Però insomma l'aggressione, cioè arrivano l'aggressione anche a farsi male. Esatto, animali. Qualcuno... leggi il grande Konrad Lorenz, premio Nobel per la medicina, vinto per l'etologia, sosteneva che è un comportamento antisociale. In realtà poi studi successivi che si sono poi sviluppati con il pensiero di Franz De Waal negli anni Ottanta hanno dimostrato che non è così, nel senso che perché ci possa essere un conflitto bisogna essere almeno in due. E sulla base di questa definizione non è possibile che sia un comportamento antisociale. Se lo vediamo traslato nel mondo umano, in effetti insomma, torna parte più. Della vita. È impressionante. L'omicidio fa notizia, però non passano al telegiornale tutti quegli atti piccoli le di altruismo, di comportamento prosociale che servono e che tutti noi mettiamo in atto centinaia di volte al giorno. È vero. I litigi, ad esempio. È impressionante come ogni volta che parliamo con Elisabetta ci accorgiamo che noi assomigliamo tantissimo a loro e loro assomigliano tantissimo a noi. Sì. Tant'è che fra un po' il noi e loro non ci sarà più. Non ci sarà più. Macachi in onda, c'è il podcast tirato giù della nostra trasmissione. Parliamo di voi. La prossima settimana li facciamo intervenire. Grazie Elisabetta, buon lavoro, ci sentiamo presto. Buon lavoro, arrivederci. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Dunque, prima del traffico vi annunciavo mappa interattiva energetica. Direi che è una definizione perfetta, ci sono dentro proprio i tre ingredienti. Sì, no? Direi di sì, è un bello strumento, devo dire, che ho incontrato, che abbiamo incontrato nelle scorse settimane, perché è un progetto che ha vinto il premio Smart City a SMAU, in occasione di SMAU Padova 2014. Li introdurremo, sono due consulenti energetici della Green Dev, che hanno sviluppato questa mappa interattiva per due piccoli comuni di 7.000-10.000 abitanti, il comune di Torri di Quartesolo e di Carmignano di Brenta. Direi, allora, intanto salutiamolo. Emiliano Vettore, buonasera. Buonasera a tutti. Lì c'è anche, sappiamo, Diego Pellizzaro che dopo ci racconterà dopo un pochino come l'avete realizzata. Vettore, se è d'accordo, direi innanzitutto di cercare di descriverla, anche se in radio non abbiamo le immagini, utilizzeremo le parole per far capire che cosa avete sviluppato in questi due comuni. Io direi che l'applicazione la possiamo anche riassumere in tre parole. È un'applicazione semplice, utile e soprattutto innovativa. È semplice perché? Perché ogni cittadino del comune di Torri di Quartesolo e Carmignano di Brenta si collega al sito internet del comune, qui scarica questa applicazione, una volta scaricata clicca sul file con il nome WebGIS 1.0 e viene automaticamente ricollegato, grazie a Google Maps, alla foto aerea del comune in cui compaiono tutti gli edifici, cubetti colorati, che contraddistinguono il consumo energetico di ogni abitazione. Allora, per quindi descriverla, qui, ecco, sì, in maniera, visiva, okay, praticamente tutti avremo presente come sono le immagini aeree di Google Earth oppure di Google Maps. Insomma, si vede dall'alto il territorio comunale, in questo caso di questi due comuni, e ogni singolo edificio attraverso questo software che hanno sviluppato e che è scaricabile gratuitamente, vero Vettore? Esattamente, ecco, Si vedono praticamente gli edifici colorati in maniera diversa. Ogni edificio, ovviamente ogni singolo cittadino può arrivare al proprio condominio. Si vedono i cubi colorati, si vede la foto in formato aereo, okay? E poi si vedono tutti gli edifici del comune, dei due comuni, in formato cubetto tridimensionale. Cosa significano i colori, intanto? I colori contraddistinguono il consumo energetico dell'immobile. Okay, quindi abbiamo dei colori che tendono più verso il rosso, che quindi contraddistinguono un'abitazione che consuma molto energia. Energivora. È un'abitazione energivora, esattamente. E invece altre abitazioni che tendono più verso il verde, verde chiaro e verde scuro, che invece sono delle abitazioni più virtuose, relativamente più virtuose nel panorama energetico territoriale. Ci sono tanti rossi? Parecchi rossi, eccola lì. Perché, le spiego, gran parte delle abitazioni, ma non solo nei due comuni che noi abbiamo trattato. No, ovunque. Esatto, sono state costruite in un'epoca in cui si badava più ad avere un tetto sotto la testa, la testa, piuttosto che avere una casa performante dal punto di vista energetico. Di conseguenza, pre-1980, la maggior parte di tutta l'Italia sarebbe miglioramento. Certo. Esatto. Un grande blocco rosso. Ecco, in vista di questo, che cosa avete pensato di offrire ai cittadini di questi due comuni? Una scheda energetica, possiamo chiamarla così. Esatto. E qui, come dicevo, l'applicazione, oltre ad essere semplice da usare, è anche utile. Perché? Perché ogni cittadino, cliccando sulla propria abitazione, si vede comparire una facciata, una finestra di dialogo, in cui gli vengono spiegati tutti gli interventi che può fare per migliorare l'efficienza energetica della propria casa. Okay? Quindi gli viene spiegato dal punto di vista energetico termico, cioè riscaldamento e accaccaglia sanitaria, cosa può fare per migliorare il proprio consumo di energia e abbattere in maniera sostanziosa la propria bolletta energetica domestica. Cioè date proprio dei consigli pratici su quello che si potrebbe fare e il risparmio economico che si potrebbe ottenere. Esatto. Sì. Aggiungo, oltre al risparmio economico, il risparmio percentuale, il risparmio economico, diciamo anche il costo di investimento necessario e dimostriamo, diciamo, che una parte consistente di questi interventi sono economicamente vantaggiosi. Cosa significa? Grazie al risparmio che facciamo conseguire in 5, 6, 7 anni, noi rientriamo dall'investimento, grazie anche alla possibilità di accedere alla detrazione al 50/65%. Con i bonus energia. Questi consigli variano a seconda delle dimensioni dell'edificio, di come è collocato rispetto al sole, quindi nord-est. Non sono consigli standard, sono personalizzati su quell'edificio. Esatto, sono fortemente contestualizzati e personalizzati. Okay. Ecco, quindi, infatti su questo spenderei qualche parola, nel senso che c'è tutto un discorso di metodo a monte per poter appunto poi stilare questa mappa. Direi che possiamo chiedere a Diego Pellizzaro, che è suo collega, se ci racconta un pochino qual è stato l'iter per costruire questa mappa. Allora, qui siamo partiti da un'analisi più dettagliata del territorio costruito. Sappiamo benissimo che all'interno del territorio comunale non tutte le abitazioni consumano in maniera uguale, sia dal punto di vista termico che dal punto di vista elettrico. Mm-hmm. Dal punto di vista termico, le variabili che vanno a incidere sul consumo sono innanzitutto l'epoca di costruzione dell'edificio e la tipologia edilizia. Mm-hmm. Abbiamo fatto quindi una valutazione dell'epoca di costruzione dell'edificato e un'altra valutazione sulla tipologia edilizia. Queste due variabili incrociate tra loro ci hanno permesso di capire com'è il panorama del costruito del territorio comunale. Questa è una fase preliminare, sì. Esattamente, esattamente. Fatto questo, abbiamo poi inviato un questionario energetico a tutte le famiglie di entrambi i territori per capire quali erano le abitudini energetiche che loro attuavano all'interno delle proprie abitazioni. Con delle semplici domande, cosa avete chiesto? Esattamente, esattamente. Tipo età di costruzione dell'edificio, per avere anche qui una riprova della cartografia storica che noi avevamo redatto. Poi l'età della caldaia, l'età e la classe energetica degli elettrodomestici, come utilizzano l'auto, come utilizzano il sistema di raffrescamento, qual è la loro temperatura media all'interno dell'abitazione, eccetera. Sì, perché ci può essere un appartamento che ha i condizionatori, altri due no, no? E quindi esatto. Voi avete un dato abbastanza raffinato, quindi. Esattamente, esattamente. Oltretutto abbiamo anche georeferenziato tutti quanti i questionari che ci hanno consegnato e quindi abbiamo capito per singola abitazione, per singola via, come erano appunto i comportamenti energetici in questa zona di territorio. E una volta raccolta questi dati abbiamo fatto delle certificazioni energetiche a campione, zona per zona, una decina di abitazioni per una zona energetica di riferimento, sì. E lì, grazie a queste simulazioni, abbiamo trovato tutte quante le azioni sia dal punto di vista energetico che dal punto di vista economico più rilevanti per attuare appunto una riqualificazione energetica dell'intero territorio. I dati che sono emersi sono molto significativi, in quanto abbiamo visto, come ha ricordato il mio collega prima, che i tempi di ritorno dell'investimento, soprattutto per le zone quelle più datate, le zone quelle più energivore, quelle rosse e arancioni, sono molto ristretti e quindi diventa molto conveniente agire. Esattamente, agire per riqualificare l'immobile. È solo che, e qui lo diciamo noi perché abbiamo incontrato diversi casi di questo genere, c'è comunque una lentezza, una mancanza di fiducia da parte del largo pubblico. Probabilmente uno strumento che fa vedere, no, belli a colori su uno schermo i tuoi bei rossi, insomma, rende concreta la situazione, emotivamente può sbloccare questa roba qui, perché non si riesce a sbloccare facilmente, questo è il dato. Esatto, l'abbiamo constatato anche noi nella nostra esperienza lavorativa e ad appunto per questo che abbiamo creato questo strumento del WebGIS, per essere più chiari e per comunicare con maggiore efficacia ai cittadini cosa che effettivamente possono fare ed avere anche una panoramica dettagliata delle detrazioni fiscali, quindi tutte le agevolazioni. Sì. Una panoramica dettagliata su qual è l'intervento prioritario da fare nella loro abitazione e quali anche sono i benefici che possono ottenere nel fare una riqualificazione, al di là anche del punto di vista energetico. Le faccio subito un esempio. Si sa che nel realizzare un cappotto termico esterno di un'abitazione si va anche a migliorare l'aspetto estetico di un'abitazione. Certo. E quindi sono molteplici i benefici che si possono ottenere appunto seguendo queste semplici azioni. E quindi nella scheda energetica voi mettete anche certo questo tipo di accorgimenti. Devo dire che insomma noi l'abbiamo visto prima dell'intervista, è uno strumento veramente molto ben fatto e soprattutto prezioso, credo, per un cittadino di questi due comuni. Perché fa toccare con gli occhi e non solo. Pensa quanto può essere comodo per uno che deve cambiare casa, quindi andare sull'edificio da acquistare e capire quali possono essere gli interventi da apporre. Poi le offerte in questo periodo ce ne sono molte, proprio perché ci sono i bonus energia, quindi avere un po' un faro che in qualche modo aiuta, perché poi questi comuni hanno, se non sbaglio, uno sportello energetico che aiuta poi il cittadino nella consulenza. Certo, ci sono tante cose. Va bene, grazie Pellizzaro, grazie Vettore, complimenti perché è un bello strumento. Chi fosse curioso basta che vada sul sito dei due comuni, Torri di Quartesolo e Carmignano, che non l'abbiamo detto, sono due comuni veneti abbastanza piccoli. 7-8.000 abitanti. E gratuitamente si può scaricare il software e vederlo. Grazie, buona serata. Grazie, buon lavoro. Grazie a voi e buona serata a voi. Sai cosa dovrebbero fare in queste applicazioni? Dovrebbero mettere degli edifici verdi falsi, perché sennò tutti dicono ma sono tutti rossi allora me lo tengo rosso. No, è una battaglia psicologica. No, non è vero, ce ne sono parecchi verdi. Sì? Sì. Buona settimana a tutti. E a tutte, ciao! Arrivederci.